Solo dal 4 al 28 novembre. Finanziamento soggetto ad approvazione della finanziaria. Tanetag 0. Media World, questa è la risposta. La Città della Speranza costruisce la Torre della Ricerca, il più grande istituto di ricerca pediatrico d'Europa per le leucemie e per tutte le malattie. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Ciao, sono Pietruccio dei Tic Tic. La Torre della Ricerca, il primo centro europeo per la ricerca pediatrica. Aiutiamo insieme la Fondazione Città della Speranza, che da anni finanzia progetti di ricerca sulle malattie oncologiche infantili. Dona il tuo contributo. www.cittadellasperanza.org. A San Bonifacio, Lonigo, Arzignano puoi ascoltare Radio Sorriso sui 97. Tu come eri bella e come la luce splendeva negli occhi tuoi, occhi innamorati. Ripenso ai tuoi occhi nel buio, sembravano stelle. Viveva il nostro amore, le notti più belle. Per te batte forte il mio cuore, le più belle parole d'amore voglio cantare. Dentro i tuoi occhi innamorati mi perderò. Innamorati. innamorati, era Luca Orsoni. Dobbiamo salutare la Rosa di Tolmezzo che ce l'ha richiesta. Dobbiamo salutare anche un'altra Rosa, Rosa di Verona, che ha mandato un SMS. La ringraziamo anche lei. Però adesso dobbiamo andare, vediamo subito, a Mestre, perché la signora Elena di Mestre ha richiesto niente poco di meno che la grande Giulietta Sacco con Profumo di Ginestre. E dopo invece andremo a salutare anche Walter di Buia con il brano Tango Bullo. Profumo di Ginestre, profumo di Ginestre avevo in te. Ed ora sono qui, racchiusa tutta in me.